attenzione, canale 10, c'è qualcuno? Attenzione, canale 10, chi c'è all'ascolto, cambio? Ah, opera. Ragazzi, non chi? Alberto! Vabbè, e allora? Messo a posto l'antenna? Negativo, no, sono qua a Fantorzola io. Piano piano, e come si fa con questo tempo, con questo tempaccio? Ma non mi fotti più, ma sono ancora giranti e non mi fotti più. E questo come sta uscendo questo apparecchio? Ma sembra bene. Vabbè. Gappa, non mi fotte più Giomari. No. Uno lo butti una volta, ma la seconda volta no, lo rubutti, no. Allora rischiare la radio al suo. Mi sento un po' strano, troppo occupa la radio. Boh, eppure è tutto a posto. Boh. Aspetta che cambia parecchio a vedere un po'. Mi sento un po' troppo occupa la radio, eh. E certe volte non si capisce cosa dici, capito? Aspetta che cambia a vedere. Prova a vedere. Certo che ti ascoltiamo, avanti. Avanti sul canale 10. Ciao, buonasera, Eugenio, per le torres. Beh, come va Eugenio? Antonio da questa parte. Ciao, buonasera. E allora, c'era Gian Maria, c'era. Cioè non ha di chi non ti invia. Cappa, basso mi senti, io sono in macchina, Euge. Ci sono in mezzo al QRM, se mi ascolti. Già ti ascolto, già, Euge. Mi ha fatto piacere risentirti. Ma ti ho capito te. Che mi ha fatto piacere risentirti. E adesso sarò presente in radio, cambiato turno di lavoro. Cappa, oggi. Ok, io devo scendere un attimino, ce la risentiamo. Gian Maria non lo so, proprio Gian Maria ha detto un po'. Non è entrato ancora, sta cambiando apparecchio. Tu dove sei? Sant'Orsola. A Sant'Orsola? A Sant'Orsola sono. Sai che scendo, ciao, ce la sentiamo. Ho capito, ma io sto scendendo, va bene. Attenzione, fino a Porto Torres, mi senti? Avanti. Cazzo, dai. In barra mobile sono. Avanti. C'è questo bel segnale a fondo scala. Pronto! Ehi, avanti, chi è? Chi è? Il tuo vicino di casa. Certo, cosa bisogna? Un giro in paglietta, già talleva. No, sto facendo delle cose, sto facendo, capito? Certo, ma sei sempre a Sant'Orsola. No, ora sono nella Putibuti, sono. Io da te che si sotto alleva. Quando uno va di così. E cosa fai? Andiamo e andiamo, bubu. Certo che ti fai giri sotto l'acqua. Ma ho saputo che te ne farò da antenna un chissuvento. No, non è proprio faranda. È un po'. Appena inclinata, un pochettino inclinata, c'è. C'è una cosa risolvibile. Adesso appena che si può, si mettono i tiranti, si mette tutto e già non andrà più a lungo, se lo posso assicurare. Sì, ci dovresti mettere i tiranti. Boh. Come sta uscendo? Bene, sì. benissimo. Io sono qua vicino al Mar Graziella e mi sento bene. Ma niente, ci sta un mal niente, ragazzi, ci sta un mal niente. Guarda che stai uscendo con il fischio, stai uscendo. Ancora? Parecchio. Non si capisce nulla. Ma non è che c'è qualche altro apparecchio acceso, no? No, non lo capisco, non c'è un apparecchio acceso. No, c'è ancora? Sì, ancora, ancora. E parecchio stai fischiando. Non è che c'è stazionario, che? Adesso chiama ancora? Adesso no. Però si sente come che c'abbi la ventola accesa. Si sente cosa? Una ventola accesa si sente. Una ventola accesa? No, è una ventola accesa. Non hai? No, sei in mezzo al QRM. Anche io ti sento in mezzo al QRM, sento basso basso. Mi senti basso basso a me? Strano. Arrivi a 5, la radio 3. Ma io un po' meglio sono, ok. Anche tu, dove vai? Vabbè, ma tu sei in macchina. Prova adesso a vedere. Adesso è aumentato, c'è la radio aumentata. Perché no, non avevo guardato bene. Ho dovuto spostare una manopola. C'è un sacco di preparazione per gli arrivano inglesi. Vabbè, so che avevo detto. Ma tu, più forte giocare renna va. Sì, sì. Io sono qua, alla punti sono. Sì, non avevo spostato la manopola, non avevo spostato. Sono anche cosimino, capito? Il ferro vecchio sono arrivato. Al ferro vecchio, allora dici io su di sì. Va bene, ti arrivo a casa tua. San Piego 9, sì. Va bene, io sono loro c'è così, ferro vecchio. Antonio, non stai uscendo? Come non sto uscendo? Hola, mi senti ora? Hola. Adesso sì, è forte. Ho detto, dove c'è il ferro, dove c'è Cosimino sono io. Sì, ho capito dove sì. Ho detto, si può attaccare, ormai ti arrivo a fuoco. No, io sono in barra mobile. Vabbè, ma se sei più chi a Sassari, Gaffa. Mamma, ti tengo più meglio. Oggi, dove sei tu? Io sono a Torre. Paghissimo, che ti ascolto un po' lontano. Insieme ai Portotorresi. Cosa hai detto? Mi ascolti lontano? Ti sento un po' lontano, sei a Portotorresi. E ci dovrebbe essere un amico che si chiama Mario, che è radioamatore. Mario? Sì, già lo conosco. Prima parlava sulla 27, poi è diventato radioamatore e è sparito. Ogni tanto si fa sentire, ogni tanto però. Perché dove abita lui? Lui ha un problema, c'è sempre il QRM alto. Non ci capisce perché, Fedu. Ma avrà che marazzuti. Sta di fronte al porto anche. Ma sicuramente c'è l'antenna bassa o è senza accordatore. Buonasera a todos. Scuola, ma l'antenna ce l'hai attaccata, sì. Perché? Sì, Santiago 5. Santiago 5 sta uscendo. Antonio mi sente forte. Andi Antonio, sotto a casa tua. Che sono giunto sotto a casa, sono giunto. No, sai cos'è? Sto usando la multibanda, boh. Non so cos'è, io ho visto che è ancora dritta. È curvata un pochettino. È curvata, si è fatta la guifa, si è fatta dal vento. Vabbè, ma qualcosa ce l'hai, qualche colpo ce l'hai preso, sicuramente, perché sei Santiago 5 e tu devi arrivare 9 qua. Ciao Eugenio. Ciao Claudio, buonasera, e allora? Va bene a me, S4, ottimo segnale per me, La radio 5 è perfetta. E allora? Guarda, un po' basso, come mai? Scrivi in basso a Torre, Torre arriva di basso a me, non so, quindi stasera quando, qua è un ottimo segnale, non pensare che è un ottimo segnale da me, ottimo, ottimo. Aspetta un attimino che cambia apparecchio. No, devi già un'antenna, no apparecchio, apparecchio va nulla, l'antenna gli fa problemi. Sicuramente gli stagi, aspetta un attimo. Già se me non andiamo a lungo, capito G? S4, da dove sei tu a me, lascia perdere dentro Sassari, che sicuramente generò più rumore di S4 qua va più che bene. Considera che quello di, che è attaccato a Gigi Vulcano a ottava qua mi arriva a 5 e c'è l'antenna, l'antenna più, diciamo, è più vicino, capito? Ah, ora c'è andato, va benissimo. Sto ancora fischiando? No, non sta fischiando nulla, non tocca nulla, poi la facciamo quell'altra cosa. Ok, vediamo. Antonio, dove sei? Oh, Antonio, non tengo più tutti in avaria, so. Tore, guarda a vedere adesso se mi ascolti forte. La pazzia si antenna, tu Fabio, sì. Non attaccare che ti crea problemi alla radio, e se no, il tuo segnale è questo. No, che sia così messo male, certo che ne sia parato tutto. Sta anche a me, di brutto, si è arrivato a 7 adesso. Guarda quanto senti a Eugenio adesso. Sì, a Eugenio lo sento forte, lo sento. Ma anche tu hai cambiato tantissimo, questo che riesco a ascoltare. Arrivi a 7, la radio è bella, forte. Prima non ti sentivo. Non esonaccio nulla. Sì, che me lo vuol dire, Otto? Anche Roberto Quadrato è entrato in radio ieri, ma arrivi 9.30, non chiede la S7. L'antenna è in piedi. Però è successo qualcosa al PL, capito? Non è detto che magari come si è piegata, come bada che ti bada, si è staccato magari il polo caldo, il polo freddo dal PL, e si scende solo un cavo come tira prendendo le mani. Non è detto, perché ne deve cadere l'antenna, no? Anche il cavo ha le sue cose. Eugenio, mi arriva a 4, a me, tu ce l'hai di fronte, ti deve arrivare più forte. Non lo so, sicuramente qualche cosa nelle... Ah, ma questa è l'altra antenna, l'antenna della 27 proprio. Questa sta arrivando a S9, con la multibanda eri S3. Sto dicendo, mi ha aumentato il brutto qua a terra. Prima facevo fatica a ascoltarti, adesso arrivi a 7, alla grande. Figurati. Ascolta, voglio segnare Leo da te, Eugenio. Piaccia. Guarda a vedere, 1, 2, 3, 4 e 5. Poi mi dici se la radio è sempre la stessa. Sì, la radio è sempre la stessa, quella di 60 anni fa, oggi è sempre uguale. Il segnale sia 6.5 e poi come moduli arrivi 7 qualcosa. Figurati, avessi ricevuto l'antenna. Io sto usando quella radio che ti ho mandato con la foto, col microfono, però non è il 60, è l'altro microfono, capito? Quello suo, là, quello da Icon. Ah, cos'è il microfono? Il microfono, non te l'ho mandato la foto. Il microfono è flessibile, come l'MC80, 85, solo che è nero come la radio, capito? Ah, io avevo uno flessibile. Il microfono. No, questo è bello, questo è, cioè, il coso Icom, è tutto, è della Donis. Sono bellissimi i microfoni, ne ho due io di quelli, ne ho due, vada molto molto bene. Il microfono è il mio, vanno molto bene, c'hanno una bella modulazione, una bella timbrica, ma poi la radio è favoloso, il 27 va molto bene, molto molto bene. Sì, certo, bella, anda bene. Sì, ti ho già detto, non ho da di farlo con quella che ho io, non ha proprio niente a che fare, capito? È un altro tipo di radio, molto più, fatta molto meglio sicuramente, insomma, c'è tantissime altre cose, no? Sui display, la favola. Infatti me la stavo memorizzando, gli ho messo 45 canali, fino al canale 45. Almeno è pronta ad usare, si può usare il commutatore, c'è il commutatore piccolino, c'è quello grande e quello piccolino per come il 140, capito? Per cambiare i canali. Deve essere bella la fatta. Ma non è per me che sono un po' veloce. Che lavoro di quella coi piedi bicu, non c'è molta differenza, mi hai capito? Non c'è molta differenza. Comunque già quando scendo te lo ti chiamo oggi, non a Giovanna, dopo ti chiamo. Non sei andato a nessuna parte. Buonanotte. 68 siamo alla tendenza. Ah, quindi non ci sei domani. Ah, ma col camper dici? Ehi, non siete usciti col camper. No, dove andiamo? Cioè già potevamo uscire, là. Potevamo uscire, ma non ce la sentiamo. Non stiamo uscendo da soltanto da un lupo, diciamo, non avevamo voluto uscire. Va bene. Quindi stanotte esci a farti magari una mangiata, qualcosa, dai, con tua moglie, e domani mattina già sei a casa. Attenzione, Brecco! Aspetta, cosa hai detto oggi? Sì, che ci sono domani, tutto il giorno, alla grande. Sì, avanti, a turno. Appa, me lo date un segnale? E che segnali vuoi, a 3-3, dove sei? Kappa. No, 3. Allora, qua sei 7, però la radio fa schifo. Vabbè, un baracchinetto, 9-5. Per non scaldare, 9-5, 9-10, 9-20, cazzo, siete tutti attaccati. Oh, Marco, siete tutti attaccati qua, il segnale della radio mia è un segnale serio, non è un segnale baracchino. Se tre sta segnando qua, Antonio da casa sua, non lo so se è casa sua, boh, si va l'antenna gapputata, il segnale di Antonio è 9-5 liscio, è 9-20 quando attacca, quindi qualche problema ce l'ha, non lo so. E sulla Budi. Sono da un'altra parte, sono in zona di Sorso. E cosa vuoi da me allora, c'è in zona di Sorso? Io non ti vedo, sono coperto per Sorso, quindi non ti vedo, è già troppo, mi ci arrivendi. Gli abbiamo messo la vitamina, Claudio. Vabbè, però Marco ti ha dato 9-5, evidentemente lui ti vede, non lo so. Avanti Marco, buonasera, dimmi quanto senti Eugenio, grazie per Eugenio. Sì, allora Eugenio è... Ai, aspetta. Ciao Marco, buonasera, come sto andando? No, io come sono? Ah vabbè, l'antenna è bagnata, un po' di stazionarie, c'ho 4 watt con stazionarie un pochino, perché è proprio bagnata, grondante. Allora sì, Santiago 8, Eugenio, Santiago 8, Radio 5, Antonio invece di radio scarsino, ha segnale ma la modulazione è proprio scarsa, spero che mi schiarisco la voce, vai Claudio. Santiago 8, cosa mi dici tu? Avrà la differenza da me o Eugenio? Te l'ho detto io, S8 con 9 watt stai andando tu, adesso ricordo se ho 7 o 9 quando l'abbiamo provato, ma la radio adesso è favolosa, va bene, non lo toccare col microfono che va benissimo. No, ho messo tu, bocca fuori, poco fa stava fischiando, ma no, adesso non più, forse non va a caldare, dai insomma. Sì, vabbè, già è tutta roba provvisoria, non ti preoccupare. Tutta roba provvisoria, gappa, comunque se 8 con quel baracchino che stai usando vuol dire l'antenna sta andando alla grande. Sì, guarda, credo che quello sia il segnale consueto che aveva anche prima, intorno all'8, forse quando mette qualche watt in più anche 8 e mezzo, quindi qua è di lusso. Noi eravamo senza luce, dall'ora di cena blackout, è tornata 2 ore fine a mattinata, poi di nuovo blackout. Il vento unito alla pioggia qua ha fatto un casino, si era mezzo isolato senza luce, immagina tutte queste ore, e per fortuna hanno risolto. No, dirà me che ne ho le balle piene, voi siete città, ma io a campagna qua, c'ho il giardino che non si può manco uscire, ci vuole questi fatti, è completamente allagato, quindi ci vuole almeno un paio di giorni che non piova per rimettersi tutto in sesto, non so cosa dire. No, le balle piene, veramente, le balle piene, c'è il tubo dell'acqua che passa nel Carveglio che è a tubo pieno, sta uscendo, a tubo pieno, è una cosa impressionante, cazzo, 5 anni non ho mai visto tanta acqua, così, proprio veramente fissa, sempre piovendo. Io io spero che abbia piovuto anche sui bacini e non solo in città. Avanti che entrate. Ciao Marco, ho detto a... se la vola la muta. No, c'è la muta, ma come lei... cioè non me ne va di fastidio, perché io poi c'ho, quando esco c'è la veranda, c'è tutto il passaggio in cemento, con il lastro di cemento, quindi non cammino nell'erba. Ma se no voi voglio a vedere gli stivali, per carità, angoscia allucinante. A pronto le c'è per piovendo, sai che? Tu cosa di più pianta? Ma ora che sto tirando vento, ma sta al forte, sta più pianta. Maestrale, eh no? Sì, è maestrale, maestrale. Se non ci vuoi, ma cioè mai stare deve pulire, che non si la manda chi se va. No, ma basta, boh. Adesso da una tregua, la mancera, poi da lunedì di nuovo. Adesso, infatti, lunedì hanno cancellato le mappe. Lunedì non entrano le mappe di nuovo. Quindi separiamoci una cosa di gatta. È detto da te. Che sei il comandante del porto, ho detto da te, bisogna avere questa attrezzemo, Teso e Marco, un'altra avventuriata come quella dell'altro giorno. Oh, adesso io vedo un po' di stazionaria, magari perché l'antenna sia grondante d'acqua, ma io non lo so se ci sono tutti i radiali, quello non lo so, se si è fatta storta durante la notte non lo so. E domani quando ho avuto la spazzatura le do un'occhiata da lontano. Va bene, vai Tore, riprendete voi, io vado a bere. Aspetta Marco, passa anche qua a controllarla anche la mia se ci sono ancora. Oh yeah. Vabbè. Comunque qua, oh Claudio, quando hanno riattaccato la corrente, è la prima volta che stava tornando, no? A metà serata, no? C'è stata, è ricomparsa la luce, si è accesa la luce e si è sentito qua vicino, perché qua vicino il lavoro, il danno, si è sentito po, po, po, po, è quello, stacca, stacca, capito? Stava scintillando forte, no, proprio di scoppia ha fatto, probabilmente per l'umidità. Adesso pare che abbiano risolto, speriamo. Ma lì nella cabina che ci avete voi e sarà il trasformatore. Da noi ci hanno chiamato l'avviso. Smette di arrivare a corrente a luna e arriva alle 21.30. Ah, quel foglio che ci ha attaccato al palo all'ingresso. Dentro il gruppo di Nokia, Eugenio. Cos'era tu? No, non ho preoccupato nulla. Aspetta, o che arrivi meglio di casa, arrivi qua. Ma dove sei? Sono in zona Sorso. Ah, ho capito. E poi sarà migliore la zona, non lo so. Anto, ma non ce l'hai un amplificato per la macchina? Ma già va, dai. Anto, un amplificato per la macchina, non ce l'hai? No, non ce l'ho in questo qua. Io ce l'ho, io, dai, barattiamo. Io ho un DM1000. Giù, pure io, l'ho visto in magazzino l'altro giorno. No. Cappa. Dai, però già va meglio adesso, dai. Hola. Oh, Marco Gino sta uscendo bene. C'è un baracchino, perché il suo è in laboratorio, lo sto facendo controllare. Cosa stavo dicendo? LMB+4 non sta andando male, no? Come i fatti della radio. No, va bene. Ti ho detto, il segnale suo è coerente come era con la precedente antenna. Che baracchino è? Baracchino proprio? Sì, un baracchino 40 canali, cioè. L'ho smettrato ieri, sceso lo smettraglielo perché non avevamo smettrato l'antenna. Però sto uscendo bene, caspita, MRS4. Va benissimo per me quel segnale da Porto Torres. La radio è buona, 5. Sì, anche la radio è buona. Invece Antonio, il segnale è buono, però la modulazione è veramente bassa. Vi posso dare radio 3, è capibile, ma è radio 3. Ma non pretendete molto da questo, perché è un baracchinetto. Sì, magari si può aprire l'LC, Anto. L'LC è più amplificato, anche quelli ZG vanno bene da 30 euro. o 25 addirittura, vanno cene d'avanzo. Vai Torre Squalo. Già. Uno di quelli bisogna metterli. Guarda, con l'archivio che c'è tu in macchina, non ce l'hai Eugenio uguale, ma se lo senti, non ho una modulazione da farla. Esce un bel bene col microfono originale. Non lo so, lo do io a chi non pompa. Ma qual è il 48 XL Multi? Esatto, ce l'hai Eugenio, piccolino, è piccolo, bellissimo, senza smitter, però c'è una bellissima radio perché lui l'altro giorno lo stava usando, solo che non c'è smitter e allora ha attaccato quell'altro un pochino più grande, capito? Ma funziona bene quello di Eugenio, c'è una bella modulazione. Ah, vabbè, quello ieri l'ho sentito, no, non è il 48 XL, è un altro, sì, arrivava, di radio era migliore di Bombolo oggi, capito, di Antonio oggi. Ok, va bene, riprendete, io sto tenendo d'occhio la lavatrice, dai, che finalmente ho potuto avviarla. Devo riuscire a fare una cosa qua. Che cosa oggi? Se si può fare. Voglio abbinare il DM1000 al barattino che ho in campo. E che quello mi ha volato Marco tantissimi anni fa. Però quello ha i canali dal microfono, capito? Mamma mia, col down e up dal microfono, una rottura di balle. Io non lo so fare, oggi, se no te l'abbiamo fatto. Se non lo sa fare Massimo, dillo a Massimo se lo sa fare. Se no bisogna darlo a qualcuno che lo sappia fare, perché quando c'ha il down e up dal microfono è alimentato, vero Marco? Sì, ma guardate che trovate tutti gli schemi, su internet ci sono dei siti che mettono la piedinatura di ogni apparato, quasi ogni apparato esistente. A voi vi serve solo la ricezione, perché mi pare che senza mic mi pare si ammutolisce l'apparato, quindi la ricezione, la massa, il PTT e la capsula dell'audio, tutto il resto si lascia scollegato, isolato anche. Certo, anch'io così su due piedi non saprei farlo, dovrei vedere lo schema eccetera, ma è tutto fattibile. Diciamo, la cosa comoda è che comunque con quell'apparato, vedi, mentre guida lui può anche cambiare i canali con quel mic. Quell'apparato va bene, ma lo sai, va bene alla grande. E poi una cosa, Eugenio, quell'apparato lì io l'avevo comprato da, Claudio già lo conosce, da quel toscano un po' birbantello, però quell'apparato era andato bene, naturalmente esce forte perché era già stato aumentato, io gliel'avevo chiesto, ma esce basso come un omologato o esce bene? E lui mi ha detto no, esce bene, quindi quello è già stato aumentato in modulazione, infatti usciva bello forte per essere un omologato. Vai Claudio. Sì, ho lasciato un attimo di bianco. Oggi ti ascolto col dipolo dei 6 metri, che è più o meno come quello della 27, è 2,75 m come dipolo, che ce l'ho quasi verticale, che dall'antenna VU arriva alla recinzione del giardino. Ti ascolto S1 con la radio perfetta, 5, col dipolo dei 6 metri, te l'immagine? Quindi figurati tu che antenna se noi comprendi, va benissimo alla grande. Forse l'antenna è nuova, l'antenna è nuova, questa qua è una, appena piazzata, no, quella nuova, per forza. Adesso dopo mi devo mettere a smontare l'altra, per vedere un po' cosa. Scusa, cacchio quanto sta piovendo, di nuovo. Ehi, cazzo, ma che qua sta diluviando, che palle. Mamma, c'è il guerremo, quel fusio che fa la pioggia. Non si intende più nulla, la mazza che tiene l'aria. Sì, ma quella lì poi con calma, lasciala stare tranquilla e serena, lì poi quella con calma si smonta e si controlla bene con tester, capito? Sabato mattina, domenica mattina, ti bacemo, è una bella giornata lì in veranda e si controlla. Se riusciamo a farla funzionare, l'attacchiamo giù, no? In quella staffa che c'hai nel terrazzino della veranda, lì, con un palettino piccolino e si controlla. Se funziona, si conserva, capito? Te la tiri di scorta. Anche si può mettere quella staffa che c'hai lì, con un palo a 2 metri, bassa, e ti metti l'altro baracchino giusto così per farti delle chiacchiere in città, niente di che, capito? E poi usi l'altra, anche quella nuova. Va bene. E cosa stavi dicendo, Marco? Boh, della pioggia, vabbè, stava piovendo no, ho sentito DM1000, Eugenio mi pare ha citato quello. Allora, attenzione al DM1000 in macchina, perché ad alcuni, guarda, ho letto, l'ha fatto a me, l'ha fatto gente italiana, l'ha fatto a utenti inglesi, soffre di rientro di RF, è come se fosse poco schermato proprio il microfono, e non a tutti, ma a molti. Scusa. Allora sei stato fortunato, dai. Beh, devo dire, va bene, porca miseria, come parlo mi secca la gola. E a me è andato male, proprio aveva rientri. Invece l'M93ZG andava bene, questo credo lo stesso non abbia problemi. Comunque, se va bene, fai una prova, limita, con un altro baracchino, cosa ne so, in macchina. Signori, Bianco per me, io devo staccare, forse stacco anche l'antenna, che a me non mi scompiffera quando piove, temo sempre la schicchera, la scintilla improvvisa, e forse stacco, anzi stacco e boh. Ciao Tore, Antonio, Eugenio, Claudio, tutti gli ascoltoni, ciao, vai Claudio. Se stavo sbagliando il microfono. Ehi, Marco, dai, ci sentiamo dopo, no, ma non c'è niente di temporale, la pioggia non crea nessun problema, il problema è quando c'è temporale, i fulmini, allora anch'io rinuncio alla radio, abbasso tutto e via, perché c'è sempre il pericolo. Avanti, Tore. Ciao Marco, stammi bene, ci all'ascolto. Ci risentiamo. Io mi allontano un attimo, che devo mettere una cosa, e non che mi tende il fastidio. Ehi, Anto, va bene. Antonio, dove sei? Sempre qua sono, sempre qua. Ma non per farmi rimatti due, ma iniziando niente, quasi vede un chetto tempo in giro in macchina. Non sono in macchina. Non sono in macchina, Cla. Ah, sei a casa? Sì, sono a casa di un amico. Ah, ho capito. Già va bene. Non è a Sassari, capito? Ho capito. Non c'è a sera, ma va bene, non c'è problema. Ok. Bianco, per me un attimo che devo fare una telefonata. Arrivo subito. Sì, ok. Avanti. E cosa vai? Hola. Quindi sei a Sosa tu? Diciamo a San Michele. Copiato, sì. Sì, ma sei a casa quindi, insomma. Sì, sono in casa, sono. Parrapista, non in macchina. Ma perché stai uscendo la radio? Perché sta venendo fuori la radio così brutta? Perché c'è solo questa, cazzo. Sono da mezz'ora che lo dico. C'è solo questa come radio. Ma ci hai allacciato qualcosa, Ma cosa? Hai allacciato qualcosa, no? È liscio. Diciamo di sì, dai. E allora sta qua attimo. Prova ora, com'è? Genio, mi senti? No, vi attacca. Non arriva, la radio non arriva. Ora va meglio? Sì, adesso va più. Da quanto cambia da attaccato a attaccato? Adesso stiamo parlando, se sta non parliamo più perché non si sente. Dai, vediamo un po' di vitamine, vediamo che l'antenna ha freddo. Quanto la stai usando? Una Ringolem. Ecco, quindi piccolina. Sì, non è tanto piccolina, no. Oggi guardati i messaggi, ma no, secondo me non piglia sul telefono. Ah, adesso è arrivato. Allora leggi il titolo e dimmi sì o no, senza fare molte domande. Gamba gamba. E chi è? Non ho sentito. Ho detto una risposta. Bellino quel microfono, vabbè così in foto non lo vedi bene. Dal vivo è molto bello, a me piace un bel. Ne ho due io di quelli. Brecco? Quanti brecco? Avanti brecco. Un attimino per un controllo, ciao Genio, ciao Antonio, ciao Claudio. Claudio, guarda prima tu. È aumentato, dovrebbe essere il tuo segnale. 9.26. Però mi sembrava arrivare un po' più forte prima. Tu sei 9.30, vediamo quello che è lontano. Eugenio, come mi ascolti tu? Allora, schiaccia. Vai per Eugenio, schiaccia Robert, tieni conto che sta usando un baracchino, eh. L'ho chiamato, Eugenio, mi ascolti? Sì, ti ascolto, schiaccia. Dammi un controllo, perché ieri c'avevo problemi sull'antenna, c'ho un po' il rosso alto, ce l'ho a 1.5, 1.6, deve essere se è bagnato qualcosa. 7. Non è il mio segnale, arrivo più forte da te. Di solito sì, se mi ricordo bene sì. Ma mi senti, Roberto? Sì che ti sento, tu sei 9.10 ma non si capisce niente, Antu. Come non si capisce niente? C'è tutto... Come vuoi. Adesso mi senti? Sì, ti sento, ma sembri troppo saturo. Oh, strano. Prova a parlare. Sono 2-3. Ma non è che anche tu c'hai le stazioni orarie, o ti stai aiutando, troppo pilotaggio. Il segnale 9.10 non è il tuo, dove sei? Da un'altra parte? No, sono da un'altra parte. È un po' strana la voce. Là comunque vuole verificata questa roba, adesso con calma lo vedo. Riprendi qua. Vabbè, tanto hai aumentato parecchio, quindi già va bene. Sicuramente col vento ha rimesso un posto un po' la situazione, ma è da verificare. Lì secondo me c'è qualcosa sul PL. Quello che ho detto io, secondo me c'è entrata acqua dentro, ha messo un po' in contratto, nel senso ha bagnato, non riesce a dividere bene la casa dal centrale. Ok, vabbè, adesso già sono quante 1.5, 1.6 c'ho di stazionaria, dovrebbero essere più basse, però piano, dai. Sì, vabbè, dai. Non c'è problema. Un attimino che devo vedere dei messaggi. Ciao. Buonasera. Sai che c'è anche tu. Ciao Tony, com'è il mio segnale dalle tue parti? 9.20 come al solito, forte, ultimo. Il mio uguale? Quasi 9.20, no, perché io avevo grossi problemi. Diciamo non è al 100%, perché devo avere qualcosa sull'antenna, sul cavo, perché c'è il rosso alto. Non è il solito, io ce l'ho meno di 1.1, ce l'ho 1, deve essere successo qualcosa sulla mantova. Comunque ieri stavo arrivando basso da tutte le parti e ho visto che i segnali si sono un po' alzati. No, questo è andato bene, la verità. Ho visto il segnale di Antonio, addirittura arriva più forte Claudio, che è tutta l'altra parte, che Antonio è due passi da me, c'è. Sono a casa, non sono a casa. Sei tutto saturo poi, per carità. Ma sono di pelle, non sono a casa. Ho capito che non sei a casa, ma si sente come che stai usando i 10.000 va, tutto saturo, non si comprende quasi nulla. L'ho detto anche io. Vabbè. Avanti, oggi. Stavo dicendo, però come fa? C'è tutti i punti di gara grande. Poi da 7 passi a 8 quando muti di gara grande. Ma non so, devo verificare, perché è strano che c'ho tutto questo rosso, non è normale, dai. probabilmente c'è qualcosina dall'antenna. Già mi ha fatto danno sul, mi ha spezzato quella l'HF, la verticale per l'HF, la tunca da N2, quella da 10 metri, proprio spezzata con la canna da pesca, che è bella grossa, della Diamond, e poi mi ha disintegrato l'antenna con la tendina, era già staccata, però me l'ha fatta a pezzi. Vabbè, adesso come migliora il tempo vediamo un po' qui. Però tu il segnale ce l'hai, che ieri c'aveva anche i segnali più bassi, Alghero che arrivava sempre 9, ce l'avevo 8, 7, 8, adesso tu sei quasi 9, 10, e cosa? E oggi... Ma guarda per se va meglio ora! Un attimo, tu. Niente, l'antenna è nuova. Una bella antenna, però vabbè, normale, va. Questo è un balassino. No, no, ti ascolto bene. Ma il microfono cosa stai utilizzando? Il microfono sto utilizzando un MP5. Ma non sei con la grande, no? Non sei con la radio grande? No, no, non sono con la radio grande. Ma ti sei aiutando o sei pulito? No, no, ma è un barattino normale. Con il microfono, e basta. No, mi sta aiutando, non attacco. Io non volevo dire quelle cose lì, non ho niente. Adesso la mia unica passione è questo microfono e il barattino, stop. Cazzo, era una grande, no, no, pensavo fossi con l'altra radio, un pochettino, però una grande, di lusso, sta andando fortissimo. Ok, altro riprendi. Scappa, guarda a vedere se va meglio ora. Va meglio, ma sembra che stai parlando lontanissimo, non è la radio solita. È un baracchinetto, non si può pretendere nulla. L'importante è che non è scassaturo. Sì, passo di segnale, è saturo da parte mia. Vabbè, non si può pretendere nulla a questa radio. Ma altro se si può dire, in che zona sei? San Michele. Ma giù non è Budibudi? Sì. Sì, cacca, allora c'è andata anche tu alla grande, sei quasi 9 più 10, e che antenna c'hai? Una Ringo. Oh, no, sta andando bene, dai, non c'è problema. Eri un pochettino saturo, adesso un po' di meno, però probabilmente anche problema di coso, di microfono, dai. Ma sei nato pulito o ti stai aiutando? No, adesso... Prima era, stavo pompando troppo, adesso ne ho dato molto molto meno. Vabbè, adesso va meglio, dai, diciamo. Assolutamente, vai Torino, anche Torino risponderà alla stessa cosa, immagino, vai Torino. A me Santiago rompe, alla Budibudi, cioè dove sono io, vabbè, mi pare chiaro, segnale molto basso, a livelli diciamo di zona come zona io sono in alto pure, dovrei prenderlo bene, invece no. No, no, casa ne sta un pozzo, ma sono dei miracoli qua, cioè non bisogna pretendere molto, La campagna è dentro un pozzo, capito? Allora hai detto tutto. E il mio segnale com'è, Robè? Sempre il solito? Sì, 9 più 15, ma sei pulito tu? Non ne ho io niente sopra, soltanto paracchino e basta. Ma stanno a nome, modulazione chiara. Io purtroppo ho questo affatto dalle stazionarie, mai avuto. Adesso chissà che è successo, speriamo bene. Tanto mi ha fatto un po' di danno. Non vedo l'ora che finisca questo tempaccio. Adesso devo uscire pure. Devo stare un 20 minuti e mezz'ora fuori. Devo fare cosa? Se no sono arrivato a casa. E io stesso, troppo sto uscendo perché devo... Mi sono dimenticato ancora qualcosa. Un attimo. Mi sono fatto delle costolette al suo, vabbè. Aspetta, c'è qualcuno che vuole? Chi è avanti? Daniele, sono nel mio controllo, Robè. Daniele, già sei vivo, alla 9 più 15. 9 e 15? Bene veda, bene veda. Salutami a tutti i circolari, comunque. Anch'io ti ho sentito, c'è proprio di antenne, siamo in due allora. Io lo stesso sto tenendo sotto controllo, ma non capisce più, già la scendo e controllo cosa è successo anche a lei. Daniele, dammi il controllo, Daniele, a me. 9 e 10 sei qua, Robè. Io sto uscendo 40 passi dell'apparecchio, non di più. Daniele, vabbè. Come Torino? Che zona è Daniele? No, in qualche paese, non sei a Sassari, Daniele. No, io sono a Itti, vabbè, da due anni a questa parte. Daniele, a me come mi occupi? Più più ti sento, i salutori. Vabbè, io sentendo un nome quasi sì, perfetto. Io sono trovato a San Camillo, non so proprio a Sassari. Se fai passaggi troppo lunghi non riesco a capire cosa dici perché ti tappa un po' il QRM. Qua sei Santiago 3, sì. Robè, mi devo mettere il traliccio, non c'è nulla da fare. Daniele? L'ascolti a Eugenio, Daniele? Cosa, Robè? A Eugenio, la portatore, se l'ascolti? Passo, lo sento, non c'ha neanche radio molto forte, quindi qua è... 3 di segnale, capite, la radio l'ho levato con il QRM. Bene, mi ascolti? Antonio, ha ascoltato là? Si ha chiamato Antonio da Daniele, hai ascoltato? No, no, no, Antonio qua a zero. Siamo nella zona di doppia sierra, no? È coso, lui sa Michele, dice Zuber, sono una buddibuglia, vabbè, sta uscendo con baracchinetto, con pochi watt, diciamo i tiri magari un po' scomodo. Tonino nella zona di coso, di San Camillo, magari c'è tutte le colline che ti danno un po' di fastidio, gli danno un po' di fastidio, io già sono aperto verso quelle zone. Mi dispiace che ho perso qualche punto S, perché dovrei andare un po' più forte io, adesso sono accordato, se no mi sale un po' di troppo il rosso. Vediamo vedere cosa mi è successo, ok, vediamo se Claudio è rientrato. Perché bene o male l'ho perso come si dice, i valori li conosco adesso, dai, i segnali. E quindi vabbè, sento a te, sento a Claudio, i segnali più forti, e quindi dicevo, capito, l'altro giorno qua stavo arrivando a Santiago 3, guarda, vabbè, capito, lo stesso stavo arrivando basso, senza aver toccato a te non è nulla, oggi si è ripresa. Questo è il K, no? Eia, il 40 è però. È veramente bella la modulazione, inconfondibile, c'è il 60, si sente anche il tocco del tasto. K di Rosmetro, il cavo 213, ma sicuramente c'è un problema nel cavo, io adesso vabbè, quando l'accendo la revisiono tutta. E vediamo cosa è il problema, per metterci l'altro giorno, intanto non era nulla. Non ci sei più passato a trovare Daniele, tu Daniele ti ha fatto gozo, come ti dici, turco. Ha detto, no vabbè, io stasera sto scendendo, guarda, poco e niente, se scendo, scendo a portare i bambini di piscina per Daniele, quindi sono anche fuori sacca io. Capito, quando riesco a scendere, perché tra i miei turni e tutto è un casino adesso. K, vai Tonino. K, grazie al microfono perché ora devo uscire per forza, forse per la gara. Ok, ciao Daniele se mi sta ascoltando, ciao Antonio, ciao Egidio se è ancora in ruota, ciao Roberto, proseguo, io sono obbligato a uscire per forza, ci sentiamo, alle prossime state bene, riprendi Roberto. K, riprendo io, ciao Tonino, buon tutto, anche io tra poco devo uscire, vabbè, è una cosa breve, però poi eventualmente se ci siete rientro. Vai Eugenio. Ciao Tony, ciao. Ma dicevo, cosa ho capito bene, ma Daniele ha il camper. Daniele ha i tiri, no, camper non ne ha, non è il camper Daniele tu. Camper? Ha fatto la domanda a Eugenio. No, negativo, non è il camper. No, no, ho capito male io, dai, ho capito male, perché lo sento molto basso. Esatto, cos'è, chi è? Ma Daniele è molto c'è pasta, lui? Daniele? Come il nominativo, Daniele voce c'è pasta, così, no? Oh Daniele, com'è il tuo nominativo? Neanche me lo ricordo più, non è quello comunque il nominativo, com'era il tuo Daniele? No, ribattezzato Radio Spillo poi. No, ma il vecchio cos'era? Oh, ma è appunto Roberto. Non c'avevo, ora mi sto confondendo, vabbè, come non detto allora. Comunque stai uscendo una meraviglia, veramente una bella radio, come piace a me, bella potente, senza distorsioni né niente. Segnale ottimo, però c'è gente magari c'è il segnale più forte del tuo, però non esce così bene, è inutile, quel tipo di radio non ce n'è per nessuno, Daniele, non perché ce l'hai tu, ce l'ho anche io in questo momento, ma se vogliamo avere il massimo in AM, in 27, devi utilizzare quel tipo di radio. Te lo sa anche carissimo amico Eugenio dalla parte bassa di, anzi dalla parte del nord della Sardegna. Vai Eugenio, riprendi. Il K, lo so, è bello, è un bel apparato, forse non vedo di ritirarlo. K, tu ancora ci sei? Sì, ci sono, ci sono. Ma come mai sei fuori zona? Ma sei da Ricci o trasferito? No, no, da un amico. K, cosa volevo dire? Dì, a Michele è un po' in basso rispetto a me, ma te è alta, c'avete? No, la campagna è in basso, capito? A guai. Coperta da due montagne. Cioè, se sto uscendo così io, sto uscendo forte, ma forte. Però il microfono controllatelo perché sento delle scariche ogni tanto. Ogni tanto dà problemi da questo microfono. E vabbè, non si può pretendere niente, poi già ci metterà una radio performante. Dimmi un po' come mi ascolti di Santiago, di lì dalle tue parti. Ma guarda, Spitter non ne ha questa radio. Però ti dico una cosa, è una bomba, ti sento. Pulito, non c'ho fruscio e cosa del genere. Nulla, pulito. K, dai, ok. E oggi a te il mic. Cos'è che oggi ti ho parlato sopra? Vabbè, volevamo la sua, la sua. È perfetta, è di lusso. Non è cambiata la virgola. Ciao, dai, la radio vuol dire sta funzionando, vediamo l'antenna, dai, vediamo un pochettino, perché questi valori sono 1, 1,6, 1,7 di rosso, non è normale. Va bene, dai, probabilmente l'acqua ha magnato il PL, non so cosa è successo, vabbè. Grazie il sistema. Il problema è se bisogna buttare laggiù l'antenna sarà una battaglia, faccio prima metterne un'altra nell'altro traliccio e forse prima perderò qualcosa di Santiago, di segnali, però buttare laggiù con l'antenna è una guerra, c'è troppa roba attaccata, ci sono almeno 4 antenne sopra in quel palo. Ok, vediamo se Claudio è rientrato. Però ancora strappato, sei uscito, tanto cosa hai detto? Ho detto che la devi sistemare. E certo che sì, se no faccio danno. E resta una combriccola a tutti quelli che c'erano ieri, c'era un sacco di gente, non c'è più nessuno. Sì, già entreranno. Ti conviene, perché magari c'è roba, magari un po' di potenza usi, no? Ti conviene. No, altro. Non ne uso mai potenza, questa radio adesso se ne stanno una quindicina, sono troppe, vabbè ci sono i picchi, arriva di più, però io ho mai usato, anche nelle altre bande ho gli amplificatori anche da 1500 per dire, mai usato amplificatori, c'ho l'altro più piccolo da 500, quello lo devo attaccare, però quando devi fare certe operazioni per forza lo devi mettere se ti vuoi far sentire quando fai collegamenti a lunghissima distanza, quando fai l'app che c'è tutto il mondo che chiama, stai facendo qualche contest o cosa del genere, devi avere un po' di roba, ma ti ripeto, io tutti i collegamenti li ho fatti con la nelle bande radioamatoriali con la potenza della radio 100 watt, non di più. In VHF non uso più di 50 watt e qua sono una diecina di watt, non di più. Non, chi conta l'antenna, già lo sapete, non ve lo dico io. Tu vabbè, 1000 watt, se c'è un pezzo di filo non vale da nessuna parte, o c'hai 10 watt e c'è una bella antenna ti fai tutto il mondo. Ok, chi tocca, vediamo se Claudio è rientrato, se no riprende Eugenio. Vabbè, riprendo io chiudo che qua fanno di nuovo problemi l'antenna, dai. Ci ascoltiamo alle prossime se coincide. Dani, mi ha fatto piacere, tanto tempo non ti sentivo e anche alla grande sta uscendo una meraviglia, dai. Fatti sentire, non è che c'entro spesso qua, ma ogni tanto se sento qualcuno chiamo e se risponde qualcuno è un piacere ascoltarvi, dai. Ok, vai oggi per i saluti a Daniele, se lo ascolti. Io l'ascolto molto basso, però lui non penso che mi ascolti. Ciao Daniele, ci sentiamo alle migliori, ciao. Ok, vai Antonio. Saluto. Ti mangi la modulazione, come si chiama, tu c'hai un problemino su quel microfono, controllati il PTT perché magari come lo tocchi un po' di più o di meno ti mangia la modulazione. Hola, ogni tanto lo fa. Prova a buttarci un po' di spray per il contatto oppure lo apri piano piano delicatamente e li pulisci le lamelle. Lo so, ogni tanto lo fa. Va bene, dai. Io faccio bianco. Hola, si già sta facendo. Io faccio bianco, ce la risentiamo dopo che va a fare roba. Ok, ciao. E accanto, prima di chiudere, che radio è, che microfono? L'originale. Aspetta. L'originale è un Midland 100 Plus, già andava. No, sto scorciando dove sei, sta andando benissimo. Migliora un po' il microfono, vedi un pochettino e poi va alla grande, dai. Ok, ti saluto anche io, adesso faccio l'ultimo passaggio, magari se ci siete ci sentiamo più tardi perché devo fare cosa, devo uscire un attimino. Ciao Antonio, ciao Eugenio, ciao Daniele, chiunque fosse in ascolto. Dai, se dopo ci siete, se vi sento ci risentiamo. Ciao a tutti, QRT da parte mia. Ciao. Ciao, ci sentiamo anche la prossima, raga. Siamo più tardi se ci siete. Ciao, devo uscire. Ciao. Con effetto eco sempre. Oggi ciao. Con effetto eco. E quando mi fai ciao sembra con effetto eco. Ah, ecco. Dai, vabbè, ci siamo più tardi. Ciao ragazzi. Ciao. Vabbè, tutti a nanna.